che sognare possa essere un reato. Credi che l'amore possa essere sbagliato. Pensa, guarda avanti, non voltarti nel passato. Corri a testa alta e tutto quanto è assicurato. Un involucro di donna che ti vede e poi fa festa. Pensi che ti voglia bene ma che poi ti fotte in testa. Calcolando gesta, abbracci, baci veri e baci falsi. Ti rovina e poi appende il tuo cuore su dei ganci. E tortura la tua mente, manco fosse l'enigmista. Beve sangue e ti confonde in mezzo a tanta carne mista. Penso a coccole d'argento, basi solidi e cemento, sulle quali credevamo fosse fisso il nostro amore. Ma in realtà è una disgrazia che ora è posta in fondo al cuore. Io non credo nella chiesa e tantomeno alla paura, ma credevo in una storia che pensavo duratura. Ma tu invece mi hai scambiato in un giocattolo di pezza. Ti vorrei ancora qua ma con la scena viceversa. Anche se sempre pensavo fossi stato un po' diversa. E chissà se in realtà ora stai tramando alle mie spalle. Se hai qualcosa da ridire sono qui se c'hai le palle. Pensi che sognare possa essere un reato. Credi che l'amore possa essere sbagliato. Pensa, guarda avanti, non voltarti nel passato. Corri a testa alta e tutto quanto è assicurato. Pensi che sognare possa essere un reato. Credi che l'amore possa essere sbagliato. Pensa, guarda avanti, non voltarti nel passato. Corri a testa alta e tutto quanto è assicurato. Ero a letto che pensavo, mamma mia quanto ti amavo. Ero sveglio che pensavo, mamma mia quanto ti odiavo. Tanto tempo l'hai passato, da quel giorno ormai finito. E ora guardo le tue foto e penso a quanto mi hai tradito. Con pagliacci sedicenni che si credono metallari. Di metallo c'han gran poco se lo stile è pari ai dai. Come frecce immaginarie hai spezzato le mie ali. Come lame di coltelli hai tranciato le mie mani. Neanche fosse a Silent Hill sento sempre una sirena che mi indica la strada per la vita ultraterrena. Dove tutte le emozioni non mi rompono i coglioni. Dove tengo tra i coglioni tutte quante le emozioni. Senza darmi una risposta sei sparita dalla vita. Ma mi hai preso per il culo anche quando era finita. Quindi senti puttanella, io non sono un tuo pupazzo. Ora stoppo questa traccia e di te mi fotto il cazzo. Pensi che sognare possa essere un reato. Credi che l'amore possa essere sbagliato. Pensa, guarda avanti, non voltarti nel passato. Corri a testa alta e tutto quanto è assicurato. Pensi che sognare possa essere un reato. Credi che l'amore possa essere sbagliato. Pensa, guarda avanti, non voltarti nel passato. Corri a testa alta e tutto quanto è assicurato.